Nella vita d'ogni giorno, gli occhi della duchessa di Gourmand erano distratti e un po' malinconici. Lasciava che gli accendesse la fiamma dello spirito solo quando doveva salutare un amico, come se questi fosse un motto arguto, una battuta ad effetto, uno di quei bocconi prelibati la cui degustazione diffonde un'espressione di raffinatezza e di gioia sul volto dell'intenditore. Ma durante le grandi serate, siccome c'era troppa gente da salutare, trovava che sarebbe stato faticoso ogni volta spegnere subito dopo la luce. Come un buon gustaio di letteratura, se va a teatro per assistere alla novità di un maestro della scena, manifesta la propria certezza che non passerà una cattiva serata, atteggiando le labbra, già mentre affida soprabito alla guardarobiera, ad un sorriso sagace e lo sguardo a un'approvazione maliziosa, così, appena arrivata, la duchessa accendeva per tutta la sera. E mentre consegnava il suo mantello d'un bellissimo rosso tiepolo, lasciando scorgere una vera gogna di rubini che le stringeva al collo, e dopo aver gettato sul suo vestito quell'ultimo sguardo rapido, minuzioso e completo da sarta, tipico della donna di mondo, Oriane s'accertò dello scintillio dei suoi occhi, non meno che dei suoi altri gioielli. Qualche buona lingua sul tipo del signor di Jouville ebbe un bel precipitarsi sul duca per impedirgli di entrare. «Ma allora non sapete che il povero mamà è in fin di vita? Gli hanno dato l'estrema unzione». lo so», rispose il signor di Guermant, spingendo da parte il seccatore per entrare. «Il viatico ha avuto un effetto prodigioso», aggiunse sorridendo di piacere al pensiero del ballo in maschera cui, dopo la serata del principe, era ben deciso a non mancare. «Non volevamo che si sapesse che eravamo tornati», mi disse la duchessa. Non sospettava che la principessa aveva smentito in anticipo questa affermazione, raccontandomi di aver visto un istante la cugina, la quale le aveva promesso di venire. E il duca, dopo aver tenuto per 5 minuti la moglie sotto la pressione del suo sguardo, «Ho parlato a Oriane dei vostri dubbi». Adesso che constatava la loro infondatezza e sapeva di non dover fare alcun passo per dissiparli, la duchessa li dichiarò assurdi e mi prese lungamente in giro. «Che idea pensare che non vi avessero invitato? Si è sempre invitati. E poi c'ero io. Vi pare che non avrei potuto farvi invitare da mia cugina?» Devo ammettere che capitò spesso di fare per me in seguito cose molto più difficili. Non di meno mi guardai bene dall'interpretare le sue parole nel senso che io fossi stato eccessivamente schivo. Cominciavo a conoscere l'esatto valore del linguaggio, parlato o muto, dell'amabilità aristocratica, sempre felice di versare un balsamo sul senso di inferiorità di coloro nei cui confronti viene esercitata, ma non sino al punto di dissolverlo, altrimenti essa perderebbe la sua ragion d'essere. «Ma voi siete uguale a noi, se non migliore», sembravano dire con tutte le loro azioni i Guermant, e lo dicevano nel modo più gentile che si possa immaginare, per essere amati, ammirati, ma non per essere creduti. Cogliere il carattere fittizio di questa amabilità denotava ai loro occhi buona educazione. Crederla reale era da maleducati. Ricevetti, d'altronde, di lì a poco, una lezione che finì di insegnarmi con la più compiuta esattezza l'estensione e i limiti di certe forme dell'amabilità aristocratica. Fu una matinée della duchessa di Montmorency in onore della regina d'Inghilterra. Si formò, per andare al buffet, una sorta di piccolo corteo in testa al quale incedeva la sovrana al braccio del duca di Gourmand. Arrivai in quel preciso momento. Con la mano libera il duca mi fece ad almeno 40 metri di distanza 1000 segni di richiamo ed amicizia, il cui significato sembrava essere che potevo avvicinarmi senza timore, che nessuno mi avrebbe mangiato vivo al posto dei sandwich. Ma io, che cominciavo a perfezionarmi nel linguaggio delle corti, anziché avvicinarmi anche d'un sol passo, mi inchinai profondamente, ma senza sorridere, dai miei 40 metri di distanza, come avrei fatto con qualcuno che conoscessi appena, e ripresi il mio cammino nella direzione opposta. Se avessi scritto un capolavoro, i Gourmand non l'avrebbero apprezzato quanto quel saluto. Non soltanto esso non passò inosservato agli occhi del duca, che pure quel giorno dovette ricambiare i saluti di oltre 500 persone, ma non sfuggì nemmeno la duchessa, la quale, incontrando mia madre, glielo raccontò, e guardandosi bene dal dirle che avevo fatto male, che avrei dovuto avvicinarmi, le disse che il marito era rimasto incantato dal mio saluto, che era impossibile racchiudervi un maggior numero di cose. Non si finiva più di riconoscergli a quel saluto ogni genere di meriti, senza mai menzionare tuttavia quello che era parso più prezioso, vale a dire la sua discrezione. Né si finiva più di farmi complimenti che, come mi risultò chiaro, erano meno una ricompensa per il passato che un ammaestramento per il futuro, analogo a quello delicatamente impartito ai suoi allievi dal direttore di un istituto scolastico. Non dimenticate, cari ragazzi, che questi premi non sono tanto per voi quanto per i vostri genitori, perché vi mandino da noi anche l'anno prossimo. Allo stesso modo, Madame de Marsan, quando qualcuno, venendo da un altro ambiente, entrava nel suo, gli tesseva le lodi delle persone discrete che si fanno trovare quando le si cerca e si fanno dimenticare per tutto il resto del tempo. Così come, sempre in forma indiretta, si avverte un domestico maleodorante che l'uso dei bagni è estremamente giovevole alla salute. Mentre ancora nel vestibolo stavo parlando con Madame de Gourmand, sentii una voce d'un timbro che in futuro avrei saputo distinguere senza possibilità d'errore. Era nella fattispecie quella del signor di Vaugobert, che conversava col signor di Charlot. Un clinico non ha bisogno che il malato sotto osservazione sollevi la camicia, né ad ascoltare il suo respiro. Basta la voce. Quante volte in seguito fui colpito in questo o quel salotto dall'intonazione o dalla risata di un uomo il quale, peraltro, riproduceva alla perfezione il linguaggio della sua professione o i modi del suo ambiente, affettando una distinzione severa o una familiare grossolanità, ma la cui voce stonata era sufficiente a rivelare «è un Charlot», al mio orecchio esercitato come il diapason d'un accordatore. In quel momento sfilò davanti al barone, salutandolo, l'intero personale di un'ambasciata. Sebbene la mia scoperta della malattia in questione risalisse appena al pomeriggio di quello stesso giorno, quando avevo visto Charlot con Jupien, non avrei avuto bisogno, per emettere una diagnosi, di fare domande, di auscultare. Ma Vaugobert, che stava parlando con Charlot, parve perplesso. Eppure avrebbe dovuto sapere come regolarsi dopo i dubbi dell'adolescenza. L'invertito si crede l'unico della sua specie in tutto l'universo. Solo più tardi si figura, altra esagerazione, che l'unica eccezione sia l'uomo normale. Ma, ambizioso e timorato, da molto tempo Vaugobert non s'abbandonava a quello che per lui sarebbe stato il piacere. La carriera diplomatica aveva avuto sulla sua vita lo stesso effetto che se avesse abbracciato un ordine religioso. Combinandosi con l'assidua frequentazione della scuola di scienze politiche, aveva fatto sì che egli si votasse dopo i 20 anni alla castità del cristiano. Così, dato che ogni senso perde vigore e vivacità, si atrofizza quando non viene usato, il signor di Vaugobert, non diversamente dall'uomo civilizzato, che non sarebbe più capace degli esercizi di forza o della finezza d'udito dell'uomo delle caverne, aveva smarrito la particolare perspicacia che raramente faceva difetto al signor di Charlot. E nelle tavolate ufficiali, a Parigi o all'estero, il ministro plenipotenziario non riusciva nemmeno più a riconoscere coloro che, sotto il travestimento dell'uniforme, erano in fondo suoi simili. Alcuni nomi pronunciati da Charlot, che si indignava se lo citavano per i suoi gusti, ma si divertiva sempre a divulgare quelli degli altri, provocarono in Vaugobert un delizioso sconcerto. Non che, dopo tanti anni, pensasse ad approfittare di qualche buona occasione, ma quelle rivelazioni subitanee, simili alle illuminazioni che nelle tragedie di Racine informano Atalia e Abner che Joas è della razza di Davide, che Esther, nella porpora assisa, e d'origine giudia trasformavano l'aspetto della delegazione di X o di una certa sezione del Ministero degli Esteri, rendendo retrospettivamente tali palazzi non meno misteriosi del Tempio di Gerusalemme o della Sala del Trono di Susa. Di fronte a quel giovane personale d'ambasciata che andò al completo a stringere la mano di Charlot, Vaugoubert assunse l'espressione intensa e rapita di Elisa quando, in Esther, esclama: «Cielo! Che numeroso sciame di innocenti bellezze si offre in folla ai miei occhi e esce da ogni dove! Che amabile pudore è dipinto sul loro volto!» Poi, desideroso di maggiori informazioni, lanciò sorridendo a Charlot uno sguardo scioccamente interrogativo e concupiscente. «Ma sì, naturalmente», disse il barone col tono dotto di un erudito che si rivolge a un inesperto. Al che il signor di Vaugoubert, irritando alquanto il signor di Charlot, non staccò più gli occhi dai giovani segretari che l'ambasciatore di X in Francia, vecchio cavallo di ritorno, non aveva scelto a caso. Vaugoubert taceva, intercettavo solo i suoi sguardi, ma avvezzo sin dall'infanzia ad attribuire persino ai muti il linguaggio dei classici, facevo declamare ai suoi occhi i versi nei quali Esther spiega ad Elisa che Mardocheo, per zelo nei confronti della sua religione, si è preoccupato di mettere accanto alla regina solo fanciulle della medesima fede. Frattanto il suo amore per la nostra nazione ha popolato il palazzo di figlie di Sion, giovani e teneri fiori agitati dalla sorte, sotto un cielo straniero come me trapiantati, in un luogo separato da testimoni profani, egli, cioè l'eccellente ambasciatore, impegna studio e cure per formarle. Alla fine, il signor di Vaugoubert parlò altrimenti che con gli sguardi. «Chissà», disse malinconicamente, «che qualcosa di simile non esista anche nel paese dove risiedo». «È probabile», convenne il signor di Charlot, «a cominciare da re Teodosio, anche se non mi risulta nulla di positivo sul suo conto». «Oh, assolutamente no!» «Allora non è giusto averne talmente l'aria, con tutte le smorfiette che fa? Appartiene al genere Caruccia, quello che detesto di più. Io non avrei il coraggio di farmi vedere per strada insieme a lui. D'altronde, dovete pur conoscerlo per ciò che è conosciuto come la Bettonica». «State prendendo un grosso abbaglio. In ogni caso è una persona incantevole. Il giorno in cui è stato firmato l'accordo con la Francia, il re mi ha abbracciato. Non sono mai stato così commosso». Era il momento di dirgli quello che avevate in mente. «Oh, Dio mio, che orrore! Tremo solo al pensiero che possa sospettarlo, ma non ho alcun timore in proposito». Parole che udii, trovandomi nei pressi e che mi indussero a recitare mentalmente: «Il re finora ignora chi io sia, e questo segreto tiene sempre incatenata la mia lingua». Questo dialogo, per metà parlato, per metà inespresso, era durato appena qualche istante, e io non avevo fatto che pochi passi attraverso i salotti con Madame de Gourmand, quando una piccola signora bruna, straordinariamente graziosa, la fermò. «Vorrei tanto che potessimo incontrarci. D'Annunzio vi ha vista da un palco e ha scritto alla principessa di T una lettera in cui dice di non aver mai visto nulla di così bello. Darebbe la vita per un colloquio di 10 minuti con voi. In ogni caso, anche se non potete o non volete, la lettera è in mio possesso. Dovreste fissarmi un appuntamento. Ci sono cose segrete di cui non posso parlarvi qui». «A quanto pare», aggiunse rivolgendosi a me, «non mi riconoscete. Ci siamo visti dalla principessa di Parma, dove non ero mai stato. L'imperatore di Russia vorrebbe che inviassero vostro padre a Pietroburgo. Se poteste venire da me martedì, ci sarà per l'appunto Isvolskij. Ve ne parlerebbe lui stesso». «Ho un regalo da farvi, mia cara», riprese girandosi verso la duchessa, «un regalo che non farei a nessun'altra. I manoscritti di 3 drammi di Ibsen. Me li ha fatti avere tramite il suo vecchio infermiere. Ne terrò uno per me e vi darò gli altri 2.